Letture di Radio 24. Arriva nelle librerie la prima traduzione italiana de La vita eterna, romanzo pubblicato nel 1911 da Marie Corelli, scrittrice inglese che ebbe un'enorme popolarità nel tardo vittoriano. La protagonista del romanzo, dopo aver espresso la propria fede nello spirito e nella vita oltre la morte, racconta di un'esperienza mistica avuta durante una vacanza in barca, ospite di persone che aveva incontrato durante un viaggio precedente. Il proprietario della nave, il milionario Morton Harland, è un uomo scettico e ostile alla religione. Assieme a lui ci sono la figlia, Catherine, e il dottor Braille, medico privato che ha in cura sia lui che la figlia, da tempo convinta di essere malata. Durante la navigazione, Harland si imbatte nello yacht di Raphael Santoris, suo vecchio compagno di scuola, che fatica a riconoscere, dato che sembra che il tempo per lui non sia mai passato. Santoris cerca di convincerlo che la malattia di Catherine è soltanto immaginaria e che il dottor Braille sta facendo di tutto per incoraggiarla. «Pensi davvero che Braille sia un impostore?» disse Harland. «Impostore è una parola forte», rispose Santoris. «No, anzi, gli do credito per la fiducia che ripone in se stesso, ma fino a un certo punto. Naturalmente sa bene che il trattamento cosiddetto elettrico che sta somministrando a tua figlia è completamente inutile, così come sa che lei non è davvero malata». «Non è davvero malata?» Mr. Harland saltò quasi sulla sedia, mentre io provai un segreto brivido di soddisfazione. «Ma come? Sei stata una povera, lamentosa invalida per anni!» «Da quando ha rotto il fidanzamento con quella inutile canaglia», disse calmo Santoris. «Come vedi, conosco l'intera storia. Il tormento di tua figlia è scritto sul suo volto», proseguì. «Affetti sfortunati, desideri infranti, speranze deluse, senza la forza o la volontà di trasformare queste avversità in benedizioni. Di conseguenza diventano un esercito di germi malarici che divorano la sua fibra morale. Il dottor Braille sa che ciò di cui lei ha bisogno è credere che qualcuno mostri interesse non solo nei suoi riguardi, ma anche nella visione particolarmente morbosa della vita che si è imposta. Lui sta mostrando quell'interesse, il resto è facile. E sarà ancora più facile quando... beh, quando tu non ci sarai più». Mr. Harland tacque, emettendo piccoli sbuffi di fumo. Dopo una lunga pausa disse: «Sei prevenuto e penso che ti sbagli. Hai visto quell'uomo solo per pochi minuti l'altra sera e non sai niente di lui. Visto che ti sei imposto di non credere a niente, perché mi chiedi di svelare una verità che rifiuteresti di accettare?» «Io ti chiedo di spiegare», rispose piccato Mr. Harland. «Accettare o no la tua spiegazione è affar mio». «Verissimo», concordò Santoris con un lieve sorriso. «Come ti ho detto tanti anni fa a Oxford, la vita di un uomo è solo affar suo. Può farne ciò che vuole, ma non è in grado di controllarne l'esito. Ogni essere umano, maschio o femmina, si muove inconsciamente nella luce dell'autorivelazione, quasi che difetti e virtù vi si riflettessero come i colori di un prisma o fossero messi in mostra in una finestra, così che i passanti possano guardarli. Fortunatamente per la pace della società, comunque, molti passanti non sono dotati della capacità di vedere ciò che viene mostrato involontariamente». «Parli per indovinelli», disse Harland impaziente. «E io non sono bravo a indovinare». Santoris lo guardò fisso. I suoi occhi erano luminosi e compassionevoli. «Per te le verità più semplici sono indovinelli», replicò dispiaciuto. «È un tale peccato. Mi chiedi cosa intendo quando dico che un uomo è costretto a rivelarsi. Il processo di autorivelazione accompagna l'esistenza, come il profumo di una rosa accompagna i petali che sbocciano. Non è possibile separarsi dalla propria avvolgente aura, né nel corpo né nello spirito. È Gesù che ce l'ha insegnato quando ha detto: lasciate brillare la vostra luce davanti agli uomini, così che vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Ricorda, la luce». Questa parola non è utilizzata come una figura retorica, ma come una dichiarazione di fatto. Una vera e propria luce ti circonda, emanata e prodotta dal tuo essere fisico e morale. E coloro che hanno allenato i propri organi interiori della vista vedranno la luce prima di vedere te. Può essere puro splendore, oppure solo un involucro nebuloso, Ma quali che siano le condizioni fisiche e psicologiche della persona interessata, queste verranno riflesse nell'aura che ogni individuo irradia. In questo modo, il dottor Braille mi rivela la sua natura e la tendenza principale dei suoi pensieri. In questo modo tu riveli te stesso e il tuo stato attuale di salute. È una prova sicura che non può sbagliare. Mr. Harland ascoltò con la sua consueta aria di cinica tolleranza e incredulità. «Ho già sentito queste sciocchezze», disse. «In diverse riviste scientifiche altrimenti affidabili, ho letto alcuni articoli sull'aura di coloro che suscitano simpatia o antipatia, ma sono solo fantasie prive di fondamento». «Perché vuoi che ti dia spiegazioni, allora?» lo incalzò Santoris. «Posso soltanto dirti cosa so e cosa vedo». «Intendi dirmi, hai il coraggio di dirmi», replicò Harland, «che vedi un'aura intorno alla mia persona?» «Certo che sì», rispose Santoris. «La vedo distintamente come vedo te nel mezzo. Ma non c'è alcuna vera luce in essa. È solo una nebbia grigia, una nebbia mefitica». Avete ascoltato la lettura di alcune pagine dal libro di Marie Corelli, La vita eterna. Gargoyle Editore, 370 pagine, 18 euro. Per risanare il debito pubblico, il comune di Potenza vende il tribunale ad una società, alla quale però pagherà un affitto corrispondente al triplo della somma guadagnata. Il tribunale di Potenza era conosciuto finora per l'inchiesta su Vallettopoli, ma i tempi sono cambiati e adesso diventa il centro di una storia che ci racconta, meglio dello spread o del rating, cosa sia davvero la crisi del debito. Il comune del capoluogo lucano è in rosso, con un passivo di 100 milioni di euro, e per risanare i conti ha deciso di vendere il Palazzo di Giustizia. Il preliminare è già stato firmato, a giorni dovrebbe arrivare il rogito. Quei 40.000 metri quadri andranno alla società immobiliare Maia in cambio di 32 milioni di euro. L'incasso sarà utilizzato per abbattere il debito, ma avvocati e magistrati non dovranno traslocare. La stessa società che ha comprato il palazzo lo affitterà al comune per 30 anni con un canone intorno ai 3 milioni di euro all'anno. Se così fosse, il comune arriverebbe a spendere tre volte la somma guadagnata. Un suicidio finanziario? No, perché di mezzo c'è un regio decreto del 1941. Dice l'articolo 2 che l'affitto per le sedi giudiziarie, se pagato dagli enti locali, va rimborsato dal Ministero della Giustizia. E infatti il sindaco è pronto a spedire verso Roma la sua formale richiesta. In sostanza, con l'operazione vendita più affitto, girerà parte del suo debito al Ministero della Giustizia, cioè allo Stato, cioè a tutti noi. La storia è finita in un'interrogazione parlamentare firmata dai radicali e il Ministero della Giustizia attende gli atti per vederci chiaro, perché 3 milioni di euro non sono pochi, specie adesso che il governo vuole frenare la spesa pubblica, ma il sindaco Vito Sant'Arsiero del PD difende la sua scelta. «Faccio un'operazione per salvare il bilancio del mio comune, come ci chiede Mario Monti, ma in questo modo sta girando il debito allo Stato? E lo Stato potrebbe fare lo stesso verso gli altri. Quante sedi e terreni regaliamo ai paesi stranieri per le ambasciate o per gli altri uffici? Così la crisi del debito ricorda una palla di neve che rotola giù. Si ingrandisce a ogni giro. Ognuno cerca di allontanarla come può. Ma continua a rotolare tra noi. E potrebbe davvero farsi valanga». Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Lorenzo Salvia, Tribunale venduto e poi affittato. Così aumenta il debito pubblico, dal Corriere della Sera del 14 maggio.